Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Dietro alle trattative da colossal americano di un marchionne Giulio Cesare, itinerante e conquistatore, dietro alle automobili da piazzare a livello globale tra Europa, Cina, India, Stati Uniti, mondo, in numero maggiore o uguale a 5-6 milioni di pezzi, dietro ai sindacati americani corazzati, che attendono nei propri accampamenti di guerra il generale Marchionne, dietro ad operai sempre più trasparenti e spaventati da fusioni obbligate ma dolorose, dietro a governi che, dopo aver elargito, seppur dubbiosi, centinaia di migliaia di dollari o euro per un primo salvataggio, ora vogliono e devono imporre linee guida e strategie ad imprese che nei bilanci reali sono per ora fallite. Insomma, dietro a tutta questa grandiosità da risico imprenditoriale statale, ci sono delle realtà meno spettacolari. Il piano di rilancio degli accordi in atto non ha come centralità il solo obiettivo dei 5-6 milioni di auto vendute, ma anche l'abbassamento del costo del lavoro nella produzione in questione. Su questo punto, Marchionne è stato chiaro da sempre, sia durante l'esplosione della crisi, sia durante il percorso di avvicinamento all'accordo con Chrysler. Ma se in America è di queste ore il raggiungimento di un accordo definito doloroso dalle parti sindacali, cosa avverrà nell'orto Fiat Italia? Il grosso della produzione per i segmenti più venduti è già stato spostato all'estero. Vedi 500 e Panda in Polonia, parte della Punto in Brasile. Se le premesse e le dichiarazioni sono sempre più improntate ad un obbligo di abbassare, abbassare, abbassare i costi, cosa sarà delle nostre italiche fabbriche? E questa non vuole essere una polemica pro-protezionismo, né un desiderio autarchico, perché in questo capitalismo liberista, mozzato dalla crisi, dalla sua ingordigia e dalle decisioni degli stati di intervenire, non si può e non si deve, secondo regole scritte e non, obbligare Fiat a tenere aperti tutti gli stabilimenti italiani presenti. Però memoria storica vuole che, parlando di salvataggi, la ciambella gonfiabile è stata data per decenni non solo come cassa integrazione, ma pure con finanziamenti a fondo perduto, esterni agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Ogni piccolo o grande incidente che blocchi la produzione, ogni crisi piccola, media, grande, ogni sciopero di tir che blocchi il trasporto delle auto vedono attivarsi la cassa integrazione. La riconoscenza non è ovviamente contemplata in queste situazioni, però la chiarezza sarebbe gradita. Si spera presto di conoscere se la nuova produzione verrà fatta all'estero e se, in concomitanza a questa valutazione strategica, si continuerà a richiedere una cassa integrazione quasi permanente, se non addirittura qualche chiusura di fabbriche Fiat italiane. Inoltre, la vecchia civiltà contadina indica che il comprare senza tirare fuori il denaro frusciante può voler dire due cose. O si prende una fregatura, o in realtà viene messo in atto qualche baratto di tipo antico. Il baratto può essere quello che riguarda la cessione da parte di Fiat di pianali e motori per giungere a quel 35% di azioni Chrysler. Però, questa piattaforma di proposta avrà un costo. I materiali e le ore per produrre questi motori e pianali sono materializzati dal nulla o con materie prime e manodopera che hanno una spesa in uscita? Michele, Perugia. Gentile direttore, a me pare che questo nostro vizio italiano di dire continuamente che i nostri politici sono i peggiori sia un po' ridicolo, forse anche provinciale. Ricordo che Obama, parlando a Strasburgo, in un palazzetto dello sport gremito, non si ricordava le tre famose parole liberté, égalité, fraternité. Il senatore Arjen Specter, della Pennsylvania, è appena passato dai repubblicani ai democratici. Sarkozy, a quanto pare, ha detto che Zapatero sembra un po' scemo ma ha vinto due elezioni. Cito a memoria, ma il senso era quello. Quello che più mi preme, però, è che a forza di criticare i politici ci si dimentica di parlare dei nostri giornalisti. Nella bella teoria democratica che la retorica politica ci ricorda strumentalmente anche troppo spesso, il giornalismo dovrebbe essere un vero e proprio quarto potere, il cane da guardia della democrazia. Non le pare una grave colpa l'evidente faziosità di molti giornalisti e il fatto che molti di essi siano candidati in qualche lista? Perché da più parti si grida allo scandalo quando si candidano i magistrati e invece nessuno ha mai da ridire quando lo fanno i giornalisti? Girolamo. Secondo me al Parlamento europeo ci dovrebbero andare tecnici che portino avanti istanze politico-economiche decise dai parlamenti nazionali. La classe politica italiana, indipendentemente dal colore, dovrebbe discutere su quali siano le istanze, le linee programmatiche economiche e di sviluppo che i delegati italiani dovrebbero portare avanti. All'interno di ogni coalizione ci dovrebbe essere quindi prima una discussione ampia e concreta sulle linee tematiche da portare avanti e solo successivamente si dovrebbero scegliere i candidati che meglio rappresentino queste proposte. Poi, questi possono essere veline, saltimbanchi o principi. Può essere chiunque, purché sappia cosa vuole e cosa dire per il nostro paese. Se poi, come succede nelle altre nazioni, conosci anche bene i meccanismi del Parlamento e le varie commissioni e sa coalizzare gli interessi di più gruppi su temi specifici, ancora meglio. Se, come giustamente dice Berlusconi, si continuano a mandare al Parlamento europeo i vari trombati o le persone che sono in vista di pensionamento, oppure quelli validi ma che alla prima occasione se ne vanno per occupare incarichi nazionali, si continueranno a perdere risorse europee o si voterà senza sapere che tutto questo potrà essere dannoso per la nostra nazione. Senza contare che tra assenteisti o turnover esasperato di parlamentari italiani non ci facciamo una bella figura, anche se purtroppo mi sembra che la statura morale del nostro paese non interessi granché alla nostra classe politica italiana. Mauro. La sinistra parla delle veline, ma le candidature di vecchie cariatidi di partito alle quali bisogna dare una prebenda mi sembrano non solo deprecabili, ma soprattutto poco interessanti. Carlo. Per l'ennesima volta, sentendo le varie polemiche sui candidati del PDL alle europee, si possono sentire i falsi moralismi di sinistra e mi sembra di sentire gli stridolii delle loro unghie sugli specchi. Ricordo ancora tutte le polemiche per la Carfagna, che sembrava si fosse aggiudicata il posto passando qualche minuto sotto il tavolo del Premier. Ultimamente la moglie di Berlusconi se ne esce con queste critiche pubbliche e questo mi suona distorto. Mi suona distorto perché non lo vedo un comportamento che una persona del suo calibro dovrebbe avere. Nel senso che dopo tanti anni i comportamenti di suo marito dovrebbe conoscerli. E tra l'altro è lei che lo ha sposato e non credo che si sia mai lamentata del fatto che sta con l'uomo più ricco in Italia. E mi sembra particolare il fatto che proprio ora muova queste proteste pubbliche per dei comportamenti che io vedo in tutti gli uomini di ogni ordine e grado. Berlusconi si sa perfettamente come è fatto e non credo che per lei sia una scoperta dell'ultimo momento. Ma, a pensar male, sembrerebbe che si siano quasi messi d'accordo. Veronica e Silvio. Non trovate? Massimo. Vorrei dare la mia modesta riflessione sul caso veline e elezioni. Perché quando si presentano nuovi candidati maschi, belli o brutti che siano, non importa, non nasce lo stesso bailame? Insomma, queste signorine non avrebbero il diritto di partecipare alle elezioni solo perché carine o solo perché donne. È chiaro, no? Perché se si candida un bel ragazzetto, totalmente sconosciuto ai più, come il candidato sindaco di Firenze, è tutto ok. E se invece si candida una donna, purtroppo per lei carina, è solo e soltanto una bella fuori e vuota dentro. Io non conosco il 98% dei candidati. Vedo in giro per la città degli enormi faccioni sconosciuti che mi chiedono di votarli. Ma chi sono? Oltretutto sono anche brutti. Li dovrei votare proprio per questo? Perché sono brutti? E se fossero bellissimi? Dovrei sospettare anche di loro ciò che si sospetta delle bellissime? Pino. Egregio direttore, spesso quando nei vari notiziari si danno comunicazioni che riguardano cifre astronomiche, come avviene ad esempio quando si parla di debito pubblico o di interventi statali, si fornisce un'informazione che non rende immediatamente l'idea della portata di tali cifre. Non sarebbe più efficace, anziché dire, ad esempio, che un determinato provvedimento prevede una spesa di 60 miliardi di euro, dire invece che per ogni cittadino lo Stato spenderà 1000 euro? Alberto. Caro Alberto, lei ha ragione nell'affermare che spesso si rischia di perdere l'ordine di grandezza delle cifre che vengono annunciate. Quando si parla di grandi numeri, come quelli del debito pubblico o degli interventi contro la crisi economica, vi sono dimensioni che sfuggono alla nostra realtà quotidiana. Ma il rimedio che lei propone rischia di essere fuorviante. È vero, ammesso che vengono spesi 60 miliardi, questa somma equivarrebbe a 1000 euro per ogni cittadino, ma l'informazione rischierebbe comunque di essere distorta, perché qualcuno potrebbe pensare di essere davvero destinatario di questi 1000 euro. Quindi bisogna stare molto attenti nel dare questo tipo di informazioni, anche per non creare false illusioni. Ma forse la sua domanda ne nasconde un'altra. Perché, soprattutto negli Stati Uniti, sono stati stanziati così tanti soldi per le banche e non si sono invece sostenuti i consumi, dando soldi alle famiglie? La ragione è una sola ed è nella storia. Negli anni 30, dopo la crisi del 29, vi fu una pesante difficoltà del sistema del credito con il fallimento di molte banche e questi fallimenti resero ancora più grave la stessa crisi. Ed è quello che le autorità politiche e monetarie stanno cercando di evitare in questi mesi. Infatti, di fallimenti bancari ne abbiamo avuto uno solo e peraltro di una banca d'affari come Lehman Brothers. E si è visto che i costi di quel fallimento sono stati molto maggiori dei soldi che sarebbero stati necessari per salvare questa stessa banca. Non vi sembra che ci siano due problemi connessi al tema dei cambiamenti climatici? Primo, chi si crede di essere l'uomo? Sia perché si crede così potente da essere messo sul banco come unico imputato da parte dei catastrofisti, sia nel senso che comunque, prima o poi, l'uomo saprà intervenire con certezza e prevedere il peso del suo intervento riparatore. E questa è l'opinione degli scettici o negazionisti. Secondo, è possibile che lo sguardo alla natura e ai cambiamenti climatici sia determinato dalla paura della catastrofe? Secondo me gli ambientalisti, duri e puri, sbagliano su questo. È un problema di educazione, cioè di apertura alla totalità del rapporto con l'ambiente, a scoprirne la bellezza, l'ordine, i misteri, l'eccezionalità sorprendente e a lasciarsi stupire da quello che esiste. Questo è un punto di coscienza che chi afferra non molla più, perché entra a far parte del suo sguardo. Agitare la paura e costringere i comportamenti non serve a nulla senza la coscienza. Nicola. Permettetemi un commento veloce in merito alle richieste di privacy degli atleti professionisti. I signori atleti, dal momento che sfruttano la loro celebrità derivante dalle vittorie per accumulare, in maniera più che legittima, ingenti patrimoni in pochissimi anni, non hanno diritto ad appellarsi alla privacy. Non ne hanno diritto per due motivi. Il primo di ordine etico e l'altro di ordine economico. Quello etico è ovvio e richiama il senso dello sport per crescere e vivere secondo sani principi etico-morali. Quello economico rimanda proprio al principio principe del mercato, che è quello della trasparenza e dell'informazione. Detto ciò, ben vengano controlli, squalifiche e pesantissime pene. Franco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci